Bologna ha ben meritato l'appellativo di città delle torri, dato che la loro presenza caratterizza fortemente la città fin dal Medioevo. Ma quante sono le torri di Bologna? La risposta è 25, ovvero 21 tra torri e case-torri, di altezza generalmente più bassa e con più aperture, in modo da consentirne l'abitazione, più i 4 torresotti sopravvissuti della cerchia muraria del 1000. Se vi sembrano tante, è il momento di ricredervi. In passato ce n'erano molte di più. 25 sono soltanto le torri sopravvissute ai crolli, alle guerre, ai terremoti, agli incendi e ai funzionari pubblici, che con l'emissione di sentenze che prevedevano la demolizione dei beni del condannato e piani regolatori per la riqualificazione urbanistica hanno fatto più danni delle calamità naturali, anche in tempi recenti. Per esempio, sapevate che fino al 1919 non erano 2 ma 5 le torri in corrispondenza dell'antica porta ravegnana? A poca distanza dalla Asinelli e dalla Garisenda, infatti, in Piazza della Mercanzia, c'erano le torri Artenisi, Guido Zagni e Ricca Donna. Sono state demolite dall'amministrazione comunale nonostante l'opposizione del Comitato per Bologna Storico-Artistica, ignorando il piano alternativo proposto da Alfonso Rubiani e la petizione popolare promossa dal professor Giorgio Del Vecchio con l'appoggio dell'amico Gabriele D'Annunzio. Evidentemente in quel periodo la città era presa da una certa ansia da modernismo, una frenesia di ricostruzione che ha dimenticato la tutela dei propri beni culturali. Sarà un caso che 10 anni prima era stato pubblicato proprio a Bologna, per la prima volta, il Manifesto Futurista di Filippo Tommaso Marinetti? Per l'esattezza uscì il 5 febbraio 1909 sul quotidiano bolognese La Gazzetta dell'Emilia, venendo accolto con un certo distacco e malcelata ironia. Non si trattò di un successo, insomma. Quello arrivò 2 settimane dopo con la pubblicazione del manifesto sulle Figaro a Parigi, ma il primato bolognese rimane e Marinetti, proprio nel capoluogo emiliano, tra il 20 e il 21 marzo 1914, organizzò un'esposizione della durata di 24 ore nei sotterranei dell'hotel più prestigioso della città, oggi Majestic, già Baglioni. Per contare le torri presenti nella Bologna del passato, nell'Ottocento il conte Giovanni Gozzadini raccolse i documenti delle compravendite presenti nell'archivio cittadino. Emerse lo spropositato numero di 180 torri, unanimemente considerato eccessivo per le risorse economiche della città medievale. Probabilmente il metodo seguito da Gozzadini portò al ripetuto conteggio dello stesso edificio più volte, in quanto negli atti notarili la stessa torre poteva essere riportata con nomi diversi, a seconda della famiglia che di volta in volta ne acquisiva la proprietà. All'epoca, tuttavia, l'ipotesi era considerata attendibile e la Bologna affollata da circa 200 torri è rimasta a lungo nell'immaginario cittadino. Studi più accreditati stimano la quantità delle torri presenti a Bologna tra le 80 e le 100 unità. Tutte costruite tra il XII e il XIII secolo, ma non tutte esistite contemporaneamente. Le torri furono utilizzate come rifugio durante la guerra civile tra Guelfi e Ghibellini, una lotta fratricida che raggiunse l'apice nel 1274, con 40 giorni di scontri sanguinosi che si conclusero con la cacciata delle famiglie ghibelline dalla città. Ma come venivano costruite? Per prima cosa veniva effettuato uno scavo di dimensione leggermente superiore all'area della base che avrebbe dovuto avere la torre. Poi si procedeva a preparare il terreno, in modo fosse il più regolare possibile. Il peso della struttura, infatti, doveva essere ripartito nel modo più omogeneo possibile. Le fondamenta erano costituite da blocchi di selenite allineati da formare un piano sul quale venivano poi elevati i 4 muri. A questa regola c'è un'eccezione. Si tratta della Torre dell'Arengo, che svetta al di sopra del voltone del podestà. Si tratta infatti di una torre senza fondamenta. La struttura è infatti un piccolo capolavoro di ingegneria civile che poggia sul voltone del podestà. Per costruire le pareti si procedeva in modo simile alle mura di cinta, con la tecnica della muratura a sacco. In pratica si creavano 2 muretti a breve distanza l'uno dall'altro, formando uno strato intermedio che veniva riempito di ghiaia e terra. A mano che la costruzione proseguiva, venivano realizzati i solai in legno, i piani, collegati da rampe di scale retrattili in caso di assedio. Per costruire una torre ci potevano volere dai 3 ai 10 anni. Durante questo periodo il terreno era sottoposto a una pressione sempre crescente e, non essendo quasi mai omogeneo, bastava poco, anche uno spostamento delle falde sotterranee, per provocare piccoli cedimenti e fare in modo che il peso si distribuisse in modo imprevisto. La tecnica della muratura a sacco inoltre rendeva le torri estremamente rigide e queste variazioni di pressione non avevano quindi modo di scaricarsi lungo la struttura. Per questo, molte torri hanno presto acquisito una pendenza più o meno evidente. Le torri nascoste.